nel parco naturale di Yosemite, seconda metà degli anni 70. Immaginate, un paradiso fatto di natura incontaminata, rocce che sembrano piovute dal cielo, e lì ci sono dei ragazzi che riescono lì a trovare la loro dimensione del mondo, perché sono lontani dal consumismo, dal materialismo che in quegli anni, insomma, si stava imponendo come stile di vita, e loro non si riconoscono in quello. Molti di loro sono studenti universitari, capelli lunghi, fisici scolpiti, e una predisposizione innata al rischio. Sono degli arrampicatori, ma non arrampicatori sociali, arrampicatori nel senso letterale. Passano le giornate a salire sulle pareti, magari rischiando di finire spiaccicati a terra. Tra loro c'è anche una ragazza, è piccolina, non arriva neanche al 1,60 m, è giovanissima, due occhi azzurri che catturano. Il suo nome è Lynn Hill, è la regina del mondo verticale. I think it really goes back to my childhood. Per capire chi sono oggi, devo guardare alla mia infanzia. Già da piccola mi chiamavano maschiaccio e questo mi faceva sentire meno bambina, ma non ho mai visto nulla di sbagliato nel giocare all'aperto, arrampicarmi sugli alberi, sui pali del telefono del nostro quartiere. Arrampicare per me è stato naturale, anche se non avevo mai visto una foto di un arrampicatore in vita mia e non avevo la minima idea di cosa fosse l'arrampicata. Credo che essere messa in disparte da tutti, essere chiamata maschiaccio, mi ha fatto guardare dentro di me e capire che arrampicare era la cosa che mi piaceva di più nella mia vita e che era molto importante per me. Così ho deciso di seguire questa strada e avere prospettive differenti rispetto a tutti gli altri. Lynn nasce nel 61 a Detroit, è la quinta di sette figli, tutti con gli occhi azzurri, alla faccia del genere eccessivo, insomma. La sua è quella che potrebbe essere definita una famiglia del mulino bianco, viene fotografata anche per diverse campagne pubblicitarie con i genitori che sono figli di immigrati europei, sono arrivati a metà dell'Ottocento in America alla ricerca della fortuna. Dopo i primi anni passati a Detroit si spostano a Fullerton, in California, Orange County per la precisione. Il padre, James Allan, è un ingegnere aerospaziale, a metà degli anni 60 la NASA, lo sapete, è al lavoro per portare l'uomo sulla Luna. Qui a Fullerton Lynn impara già da piccolo una cosa che le sarà molto utile nel corso di tutta la sua vita, l'importanza di diventare autosufficienti. Essere ascoltati in una famiglia così numerosa non fu mai facile, quindi in compenso imparai a immergermi nel mio mondo e a risolvere le cose da sola. Riesco ancora a sentire le parole che mia madre pronunciava spesso in quegli anni. «Se vuoi che qualcosa venga fatto, fattelo!» Accolsi da subito la sua filosofia e questo approccio, da allora, mi ha sempre accompagnato. Sembra che all'età di 3 anni insistessi per allacciarmi le scarpe da sola. Non so se per mia natura, per necessità o per entrambi i motivi, imparai a essere indipendente e autosufficiente. E Linda, bambina, passa le giornate all'aperto assieme ai fratelli e alle sorelle, a caccia di serpenti, arrampicandosi sugli alberi, sui pali del telefono. E la madre dice di lei: marciava al ritmo di un tamburo diverso. Vedendo la piccola fare certe cose, lei decide di iscriverla a nuoto, poi ginnastica artistica, insomma vuole incanalare le sue energie. Lei questi sport li praticherà anche fino all'adolescenza. Poi arriva il fidanzato di una sua sorella maggiore che le fa scoprire qualcosa che le cambierà per sempre la vita. Il mondo è quello della arrampicata. L'anno che compì i 13 anni, uno dei nostri viaggi ci portò da Los Angeles verso nord, oltre Bakersfield e lungo il fiume Merced. Appena sbucammo fuori dall'ultima curva, dopo il tunnel Weiwana, la vista della Yosemite Valley mi stupì come nessun altro panorama aveva fatto prima di allora. Mi venne la pelle d'oca mentre fissavo a occhi sbarrati le suggestive pareti marmoree di El Capitan. Sapevo che c'erano persone che scalavano qui, ma non riuscivo a immaginare come qualcuno potesse salire un muro di roccia così verticale e alto come El Capitan. E questo viaggio con la famiglia nel parco di Yosemite è un momento di svolta per la vita di Lynn Hill. Lei rimane catturata dalla maestosità delle immense pareti rocciose che già da qualche anno sono diventate la mecca degli scalatori. Già negli anni 50 i primi pionieri dell'arrampicata avevano assaggiato quelle pareti, le avevano scalate con le tecniche utilizzate dagli alpinisti europei, cioè con le piccozze, le corde, i chiodi e ogni tipo di aiuto di quel genere, quindi la tecnica, diciamo. E poi però col passare degli anni anche quella tecnica cambia, cioè la tecnica di ascesa. Gli appassionati sentono la necessità di alleggerirsi sempre di più, di vivere l'arrampicata come un'esperienza il più naturale possibile, e questa è la filosofia che sposano anche i ragazzi che stanno frequentando la valle di Yosemite nella metà degli anni 70. Si fanno chiamare Stone Masters, i maestri della roccia. Gli Stone Masters erano un gruppo di californiani incredibilmente in forma, temerari e dotati di talento, che dominarono il mondo dell'arrampicata negli anni 70. Il loro nome la diceva lunga su di loro. Erano maestri sulla roccia, ma anche nell'essere costantemente stonati. E durante queste vacanze all'insegna dell'arrampicata, Lynn entra in contatto con questi Stone Masters e con il loro leader John Long. Lui si accorge per primo delle capacità di Lynn, la vista arrampicarsi, la invita a entrare a far parte del gruppo, e Lynn non è insensibile all'interesse di questa disciplina, di questi ragazzi che sono fenomeni nel loro campo, accetta volentieri l'invito, e tutti si rendono conto subito che quella ragazzina ha la stoffa per tenere testa ai maschi, e nessuno ha il coraggio di ammetterlo. Lei si guadagna sul campo il titolo di prima Stone Master donna e trascorre a Yosemite delle estati intere con giornate fatte sì di scalate, ma anche con marijuana e alcol per festeggiare subito dopo. Insomma, una specie di famiglia, diciamo, di hippie di seconda generazione che ha scelto di vivere nella natura perché si sente compressa dalla civiltà. Il segreto per arrampicare bene è farlo il più possibile. A Yosemite, all'inizio degli anni Ottanta, ci dedicavamo alla scalata come se fosse stato un impiego a tempo pieno e anche di più. Lavoravamo 5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno, e facevamo anche molti straordinari. L'unico problema era che l'arrampicata non veniva retribuita. Perciò gli scalatori vivevano in economia, stiracchiando i magri fondi accumulati durante i periodi di impiego stagionale come camerieri, carpentieri, spazzacamini, inservienti, pony express per la consegna di pizza o pacchi a domicilio, pescatori, giardinieri, pulitori di grattacieli, muratori, specialisti in tetti, commessi, addetti alle ricognizioni sulle piste da sci o ogni altro impiego a breve termine. Io riuscii a vivere al campo 4 per tutta un'estate con $75, ma altri vi si fermarono molto più a lungo senza avere un soldo. Per sopravvivere a una stagione di arrampicata a Yosemite, passando attraverso le piogge primaverili, il caldo dell'estate, la goduria dell'autunno, bisogna sapersi ingegnare. E Lynn si trasferisce stabilmente a Yosemite, anche perché a casa le cose non vanno come prima. Quella famiglia perfetta che era stata ritratta anche sui giornali come modello ideale americano si sta trovando in difficoltà, le difficoltà portate da un grande cambiamento. Perché il capo famiglia, James Hill, diciamo, cede alle lusinghe di una cameriera di Houston conosciuta durante un viaggio di lavoro, tiene per un po' nascosta questa relazione, poi la storia viene a galla, il diavolo si dimentica di fare anche i coperchi, la famiglia comincia a trattarlo come un estraneo, l'armonia si spezza, Lynn vuole scappare da quel clima che per lei è inquinato. Insomma, l'arrampicata diventa l'unico modo per lei per liberare la mente, per non pensare a tutto quello che sta accadendo a casa sua. John Long, il leader degli Stone Master, racconta così di Lynn alle prime uscite col loro gruppo. Noi la chiamavamo Little Linny. Lei era un prodigio e ognuno ne era cosciente. Nonostante ciò, si è aggregata al nostro gruppo con grandissima umiltà, dimostrando di essere una persona semplice. Vent'anni fa, nessuna donna aveva mai scalato bene quanto facevano gli uomini. Perciò, quando Lynn ha iniziato a farci mangiare la polvere, cosa che le ho sentito ripetere innumerevoli volte, i ragazzi hanno cominciato a tirare fuori le più stupide scuse per giustificarsi. Alcuni duri a morire si rifiutarono sempre di credere che una ragazza alta 1,5 metri potesse davvero essere così brava. A Yosemite il suo successo era apparentemente legato alle sue mani piccole, che si adattavano perfettamente alle fessure più strette. Sul calcare, lei poteva inserire 3 dita in posti dove il resto di noi ne poteva mettere al massimo 2. È finita la scuola superiore, lei si trasferisce in pianta stabile a Yosemite e trascorre mesi interi a arrampicarsi con gli Stone Master. Vive con quest'unico obiettivo: arrampicare. Non si preoccupa troppo di quello che sarà il suo futuro, anche perché per adesso il suo futuro è fatto di giornate passate appese a una parete, vivendo quotidianamente con questa adrenalina portata dal rischio di cadere e di morire. Più passa il tempo, più si sta rendendo conto che quella è la sua dimensione. E gli scalatori del parco di Yosemite sono poveri in canna, fanno lavoretti saltuari per tirare a campare, insomma vogliono avere il necessario per la sopravvivenza, qualche soldo in più magari farebbe comodo per comprare nuove attrezzature, per riparare un furgone, una macchina, però i soldi non cadono dal cielo, o meglio, quasi mai, perché una notte del 1977 accade proprio questo: i soldi cadono dal cielo letteralmente per alcuni scalatori, è festa grande. Anche se non sono mai arrivata al furto, mi sono spesso chiesta che cosa avrei fatto se mi fossi trovata coinvolta nel losco affare del disastro aereo del 1977, quando gli arrampicatori recuperarono una fortuna in marijuana da un aereo di contrabbandieri che cadde sul territorio montuoso sopra lo Yosemite. Invidiai l'attrezzatura nuova, i luccicanti furgoni Volkswagen, i lunghi e ben equipaggiati viaggi di arrampicata di cui alcuni scalatori usufruirono grazie ai frutti di quella illegale operazione di recupero. Ma ne vidi anche il lato oscuro. La storia di cui sta parlando Lynn è quella di un aereo che si dice sia partito dal Messico nel febbraio del 77 con a bordo 240 balle di marijuana destinate al mercato americano. È tanta roba, in tutti i sensi, solo che l'aereo è stato dirottato da una banda rivale che ha preso il controllo del mezzo, che l'ha fatto schiantare volontariamente sul lago Lower Merced Pass. In quel momento il lago era ghiacciato in superficie, 25 km in linea d'aria di distanza da Yosemite, con lo schianto che ha distrutto l'aereo, ha disperso il carico su tutta la superficie del lago. Quando si è saputa la notizia, tutti si sono fiondati sul posto, tutti gli arrampicatori hanno caricato gli zaini con tutta la marijuana che potevano recuperare, sono tornati a valle e, insomma, hanno venduto questa marijuana e alcuni di loro hanno veramente fatto i soldi, si sono dati alle spese pazze. E questa ricchezza improvvisa spesso è difficile da gestire, e lì è stata impossibile da gestire. Gente che fino a qualche giorno prima lavorava duro per racimolare qualche dollaro, adesso si trova piena di soldi. E in più quell'erba attira l'attenzione dei ranger sul campo degli arrampicatori. Insomma, da quel momento in poi la vita per tutti quei ragazzi non è più stata la stessa. Quelli che non sono rimasti coinvolti nella vicenda come Lynn hanno continuato a affinare il loro marchio di fabbrica, che è la scalata in free climbing. Very gymnastic kind of climbing, hanging on to small edges. Salire sulla roccia con la tecnica del free climbing prevede una grande capacità di usare i piedi e metterli nel punto giusto, ma per fare questo serve grande coordinazione. Quello che significa free climbing è andare avanti solo con una corda di sicurezza, sospesi senza essere agganciati a un chiodo. Non c'è nulla tra la protezione e la corda, devi solo arrampicare. The protection or the rope. You're climbing. Lynn è diventata una maestra in questa tecnica. Il suo nome finisce sempre più spesso nei titoli delle riviste specializzate insieme a quelli degli altri Stone Master, solo che ovviamente il suo fa più rumore rispetto agli altri, intanto perché è una donna, è l'unica, una delle poche che riesce a tener testa ai migliori arrampicatori del mondo, gente che ha lavorato tantissimo per sviluppare una muscolatura che permettesse loro di salire anche le pareti che hanno pochi appigli, ma poi ha un'immagine affascinante, ha due occhi azzurri, insomma è carina, cattura l'attenzione dei lettori, l'immagine sta diventando super popolare e lo stesso vale anche per il movimento dell'arrampicata, cioè si sta un po' snaturando lo spirito iniziale, adesso gli scalatori sono dei veri e propri personaggi, fisici scultori, vogliono, si fanno vedere a scalare le pareti a petto nudo, insomma sono diventati dei soggetti interessanti per le agenzie pubblicitarie, hanno dei contratti, compaiono negli spot, diventano testimonial dei prodotti più svariati, dalle auto alle lamette da barba, insomma da un lato i soldi arrivano, dall'altro si perde quello spirito, insomma è la fine di un'era. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Stiamo raccontando una storia di rischio, paura, libertà, suggestioni, una storia ambientata sulle pareti verticali, sulle terre degli arrampicatori coraggiosi e anche incoscienti che hanno scritto delle pagine fondamentali per gli appassionati di questo genere di sport. La nostra protagonista di oggi è Lynn Hill, una delle prime donne che hanno lasciato il segno nel mondo dell'arrampicata, che hanno fatto mangiare la polvere, e letteralmente, perché lì se stai sotto mangi la polvere. A tanti colleghi maschi che pensavano di essere gli unici capaci di queste imprese. Lì negli altri Stone Masters che abitano nel parco di Yosemite, si arrampicano tutti i giorni, vivono alla giornata e per accumulare qualche soldo sono disposti a fare qualsiasi tipo di lavoro, trovano peraltro a Las Vegas una terra fertile perché gli arrampicatori vengono ingaggiati per dare spettacolo nei locali grazie alle loro doti fisiche. Un giorno il mio amico Dan, che si esibiva come spogliarellista in un night, mi propose di guadagnare soldi facili nello stesso locale. «No, grazie», dissi ridendo. «Parlo seriamente», mi rispose lui. «C'è un incontro di box femminile ogni giovedì sera. Saresti perfetta». Prima che avessi l'opportunità di rispondere, il mio fidanzato dell'epoca, John, intervenne. «Dai, Linny, provaci! Sarà divertente!» Mi iscrissi. Il giovedì sera ci presentammo in un bar scalcagnato appena dopo il cartello «Welcome to Las Vegas». I clienti erano cowboys metropolitani, camionisti dalla pancia gonfia di birra e ricoperti di tatuaggi, e uomini anziani che sembravano non aver lasciato il bar da decenni. L'organizzatore mi porse un paio di guantoni di misura troppo grande che assomigliavano più a dei cuscini. La mia avversaria era più alta di me di parecchi centimetri, con capelli biondi e braccia esili. La campana suonò e volarono i pugni. La mia avversaria faceva del suo meglio, ma io mettevo più forza nei miei colpi. Dopo il nostro breve incontro fui dichiarata vincitrice. Gli avventori alzarono i bicchieri e farfugliarono all'unisono: «Hai un futuro, piccola!» Ridevo assieme a loro per l'assurdità di tutta la storia, quando incrociai gli occhi di un'amica che John aveva invitato. Aveva lo sguardo imbarazzato, tanto quanto il mio, e ebbi la conferma di aver appena fatto qualcosa di assolutamente stupido. Quando l'organizzatore mi porse una misera banconota da $20, mi sentii ancora più ridicola. E questa non è l'unica esperienza lavorativa bizzarra che Lynn vive nei primi anni Ottanta. Gli scalatori vengono visti come fenomeni da baraccone, non solo a Las Vegas, ma anche dalle televisioni che li ingaggiano per far compiere loro delle imprese impossibili, rischiosissime. Lynn, per esempio, accetta la proposta di partecipare al programma That's Incredible e deve scalare il pallone di una mongolfiera a 2000 metri di quota. È una sfida pericolosa che tiene il pubblico americano attaccato agli schermi, e sono gli anni degli sport adrenalinici. Lynn all'inizio non è molto convinta di questa idea, però l'offerta è di $4000, allora le preoccupazioni le lascia da parte, accetta, si guadagna da vivere in quegli anni grazie alla TV, ma anche con i premi guadagnati dalle gare estreme. Vince per 3 anni di fila la Survival of the Fittest, che è una delle più famose gare di arrampicata in velocità. Peraltro riesce a ottenere un premio uguale a quello degli uomini, perché la sua prima partecipazione agli uomini vincitori andavano $15000, alle donne 5000, poi in qualche modo fa da sindacalista per la categoria delle donne arrampicatrici. Questa vita a un certo punto però comincia a stancarla e decide di trasferirsi a New York, e lì incontra una persona che diventerà fondamentale per la sua vita. Si chiama Russ Raffa. Russ era cresciuto nella periferia di New York, dove tutto, dal modo di mangiare a quello di fare affari o di parlare, era all'insegna della fretta. Aveva studiato civiltà islamiche e sufismo alla Northeast University di Boston e, avendo capito che gli sbocchi professionali nel suo campo erano limitati, dopo la laurea aveva accettato un lavoro come agente immobiliare. Aveva scoperto l'arrampicata relativamente tardi, all'età di 20 anni, ma era stato subito coinvolto da questa attività che richiedeva impegno fisico e mentale. L'arrampicata fa da collante per la coppia tra Lynn e Russ. I due diventano inseparabili, si sposano nel 1988. Lynn nel frattempo si è laureata in biologia alla New York University, diventa una scalatrice a tempo pieno, partecipa a molte gare di arrampicata sportiva, si guadagna da vivere coi premi, fa continuamente avanti e indietro con l'Europa. Lei lì scala le Alpi italiane, le pareti del sud della Francia. Proprio qui, a poche settimane dalla prima Coppa del Mondo di arrampicata, vive una delle esperienze che più la segneranno per il resto della sua vita. Era il 9 maggio 1989. Con Russ Raffa, mio marito da 7 mesi, mi trovavo alla base del muro di Styx, il muro di Stige, un nome che proviene dalla mitologia greca. Lo Stige era il fiume dell'aldilà che le anime dei morti dovevano attraversare. Giunta sotto la parete grigio-azzurra, gettai il mio zainetto su una piattaforma di radici contorte e i miei pensieri tornarono alla routine dei preparativi per la scalata. Chissà quante migliaia di volte avevo ripetuto quei gesti. Staccarmi dal suolo, impegnarmi sulla roccia con le dita di mani e piedi per i circa 30 metri di una via, infine passare la corda in un ancoraggio ed essere calata di nuovo a terra dal mio compagno. Questa procedura per me era familiare quanto guidare la bicicletta o mettere in moto la macchina. Era diventata così automatica che a malapena le prestavo attenzione. Iniziai a passare la corda di nylon dello spessore di un dito attraverso l'imbragatura con l'intenzione di legarmi con un nodo. Ma invece di finire di fare il nodo, decisi di andare a prendere le scarpette da arrampicata che avevo lasciato a qualche metro di distanza. E nella vita ogni distrazione ti può costare molto cara. Se poi di mestiere ti arrampichi, e allora rischi veramente la vita. Lei sta scalando la parete, convinta che tutto sia a posto, e non sa che è appesa a una corda che è legata al nulla. Lei arriva fino in cima alla parete a 30 metri da terra e poi si aggrappa alla corda per calarsi a terra. Solo in quel momento sente che non c'è niente che la trattiene, insomma che la corda non è legata. La caduta è inevitabile. Per Lynn sembra non ci sia più nulla da fare. Non è vero che durante un volo una persona vede scorrere la propria vita davanti agli occhi. Non c'è tempo neanche per formulare un singolo pensiero compiuto, ma l'istinto di sopravvivenza è connesso a circuiti più veloci di qualsiasi altro processo mentale, e quando vidi il cespuglio avvicinarsi sapevo d'istinto che la migliore soluzione per cavarmela era di finirci sopra. Raggomitolai il mio corpo a palla, attraversai come un razzo i rami di una piccola quercia, poi la mia natica sinistra sbatté contro un groviglio di radici che coprivano il terreno. L'impatto mi tolse i sensi. attorno al suo corpo, si raggruppano i tanti arrampicatori che si stavano allenando nello stesso posto, arriva un'ambulanza che la porta di corsa al pronto soccorso di Marsiglia. Mentre fissavo il soffitto bianco, la mia mente si riempiva di quegli interrogativi che vengono in mente quando si è stati a un passo dalla morte. Come ho potuto sopravvivere a una caduta del genere? Che significato ha questo volo? L'accaduto sollevò le ovvie domande circa il mio destino e lo scopo della mia vita. L'arrampicata aveva determinato il corso della mia esistenza. Mi era entrata nel sangue, tuttavia, quando la gente me ne chiedeva la ragione, faticavo a trovare le parole per spiegarla. Non riuscivo a immaginare di vivere senza arrampicare, ma dove mi avrebbe condotto questa avventura? Improvvisamente su tutta la mia vita incombeva un punto interrogativo. Capii che era tempo per Lynn di dare un'occhiata da vicino a Lynn. Quindi mi rifugiai di nuovo nel sonno. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. A sole 6 settimane dall'incidente del 1989, Lynn Hill è già in parete ad arrampicarsi. È ancora ammaccata dalla caduta in Francia, deve rinunciare a partecipare alla prima Coppa del Mondo della storia. Nel frattempo, peraltro, questa caduta ha delle ripercussioni non solo sul fisico, ma anche nella sua psiche, diciamo, perché il matrimonio con Russ comincia a scricchiolare. Russ e io sembravamo due estranei e anche se ci sforzammo di capirci, entrambi sapevamo che il nostro matrimonio non funzionava. Gli appunti dello psicologo al quale ci rivolgemmo durante questo periodo travagliato sono significativi. «Sembrate avere una vita di coppia molto poco intima», scrisse nel suo rapporto. «Per me era chiaro che i nostri valori e il modo in cui ci rapportavamo alle persone erano sostanzialmente incompatibili». E dopo solo un anno e mezzo il matrimonio tra Lynn e Russ si chiude. Lei carica tutte le sue cose su un aereo che da New York la porta a Nizza, e nel sud della Francia lei inizia la sua terza vita. Acquista una vecchia casa, la sistema con le sue mani e in un certo senso questo lavoro manuale le serve per superare la fine del matrimonio, insomma per uscire un attimo anche con la testa dai suoi problemi. Nel frattempo però sta già progettando quella che diventerà la grande impresa della sua vita: scalare il The Nose, che è una delle vie più difficili e pericolose di El Capitan. Stiamo sempre parlando di Yosemite. Lo vuole fare in libera, cioè senza l'uso di appigli artificiali, e lo vuole fare in un solo giorno. Nessuna donna ci è riuscita prima. When I left California in 1983, quando lasciai la California nel 1983, avevo girato già in ogni zona del mondo e avevo provato tantissime altre discipline sportive. Avevo vinto tanti trofei, ma il ricordo degli anni di Yosemite era ancora vivo dentro di me. Volevo essere la prima scalatrice della storia a salire il The Nose su El Capitan in arrampicata libera. È una parete storica, la più ambita di tutte nel parco di Yosemite, e mi sembrava il modo migliore per mettere alla prova le mie capacità di scalatrice. E Lynn ritorna lì dove tutto è iniziato, al parco di Yosemite, e lo fa per entrare nella storia. Vuole scalare il The Nose, 800 metri, e vuole farlo in giornata per dedicarsi a questa impresa. Lascia il mondo delle gare di arrampicata con un bottino di 26 vittorie su 38 gare, e la scalata del The Nose diventa la sua ossessione, e dedica mesi di preparazione a questa impresa che compirà nel 1994, dopo diversi tentativi andati a vuoto. La batteria della mia frontale si stava scaricando, così come mi si stava esaurendo la forza nelle braccia. Sotto di me 800 metri di parete, tutto placche, strapiombi e fessure. Un ultimo sforzo e misi piede sulla cima dopo 23 ore di arrampicata. La mia mente vagava in un mondo irreale, tuttavia fondamentalmente percepivo un senso di pace e serenità. Stavo sognando a occhi aperti, perciò sapevo che non potevo comprendere pienamente tutto quello che avevo provato nel corso di quell'esperienza. In effetti, mi ci sono voluti anni per digerirlo completamente. Questa impresa del 94 spedisce Lynn di diritto nell'Olimpo dell'arrampicata mondiale. Sicuramente è la donna più forte del mondo in questo campo. Oltre all'impresa sul Danose, lei vince anche il campionato mondiale di specialità nel 1990. Questo le permette di diventare una vera e propria star di questo sport e di dedicarsi finalmente a quello che le piace di più, arrampicare, senza dover pensare ogni giorno a come sopravvivere. In una delle sue ultime imprese ha rischiato di finire folgorata sulle montagne del Kirghizistan, ha visto morire compagni di arrampicate, amici di una vita che sono stati più sfortunati o magari più disattenti di lei. Sono dei rischi del mestiere, ognuno di noi deve mettere in conto che qualche volta nella vita può distrarsi e pagarla cara. Lynn è stata brava e fortunata, doti che le hanno permesso di diventare la numero uno, la regina del mondo verticale. Nella sua vita Lynn Hill ha aperto nuove vie sulla roccia, ha fatto vedere al mondo come una donna possa scalare come e anche meglio degli uomini, dimostrando che la mancanza di forza fisica si può compensare con agilità, con intelligenza. Ogni giorno noi raccontiamo storie di persone particolari e voi potete sempre riascoltarle nel nostro podcast. E per tutto il resto sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.